Eccoci di nuovo in onda su Zik Radio. Abbiamo sentito due assaggi del nuovo progetto di sperimentazione musicale che ospitiamo quest'oggi. Siamo in compagnia degli Amoto Mio. Ciao. Ciao. Mad e Jack, rispettivamente voce e chitarra e quant'altro, e energia di questa formazione dell'underground bolognese che sta imperversando sui migliori palchi e nei migliori locali della nostra città. Addirittura. Sì, facciamo un po' questa marchetta perché sapendo che voi avete così tanti ganci con i baristi, insomma, mi torna comodo. C'è chi sghignazza qua. E dunque, insomma, raccontateci un po' come ve la passate, insomma. Ma è iniziato. Ma ce la passiamo bene, no? Te cosa dici, Mad? Sì, abbastanza. No, comunque. Intanto manca l'altro chitarrista e il contrabbassista, che è un po' il regista è sempre in regia, diciamo, che è Nicolò e Diego. Nicolò mancano oggi perché rispettivamente sono uno al mare, tra l'altro dovevano suonare in Piazza dell'Unità, bastardo, per il 25 aprile, cioè oggi, il giorno della liberazione, ma alla fine è andata così, insomma. È stato più veloce di voi, insomma. Abbiamo fatto prima venire qua, tanto siete in collegamento, quindi. Speriamo che ci sia a questo punto tanta pioggia al mare, no? Così. Almeno. Ah, mi sa che fra un po'. Ma mi sa che non è che c'è tanto un bel tempo. Io l'avevo detto, solo che stamattina Jack mi ha alzato alle 11, no? Alle 11. A un orario. Sì, proprio e gli ho risposto. Da contadino. Sì, sì, allora gli ho risposto un po' male. Rivendichiamoci la terra. Non c'è, insomma, più Diego. Io stanotte mi sono addormentato nelle 2:30, 3, c'era il meteo, mettevano per il pomeriggio pioggia. Sono andato a casa di Diego per prendere poi la preproduzione che vogliamo, insomma, far sentire magari un paio di pezzi dopo, più tardi. E mi fa: io vado al mare. Io gli ho detto: merda, però. Merda, che occhio, becchi della grande acqua. Occhio, che becchi dell'acqua. E lui fa: no, ma c'è un bel tempo. Perfetto, adesso inizia a venire il brutto tempo. E chiaramente, fra un po' si becca anche un acquazzone alla faccia sua. Beh, della serie è andato a cercare l'acqua e ne avrà quanta ne vuole, insomma. Però del resto, insomma. Sia sotto che sopra. Abbiamo fatto un bello spettacolo, a parte gli scherzi, all'ex mercato 24 giovedì, in occasione del mercatino biologico che si tiene sempre ogni giovedì. Ieri abbiamo suonato in 3 acustico al Baraccano, è andata molto bene anche se non c'era Jack, e mercoledì ci saremo sicuramente tutti per aspetta, in occasione per dire del cosa, prima, cioè, no, in occasione di una festa che proporremo dopo, ne parliamo magari, però almeno facciamo ok, un, no, non, un non mettiamo subito tutta la carne al fuoco. Io prima di cominciare qualsiasi discussione sarebbe doveroso fare un augurio di buon 25 aprile a tutti i nostri ascoltatori. Tu questa è veramente un'ottima idea e infatti auguriamo a tutti. Ho visto molte sdaure in centro. Erano tante sdaure, ma questa mattina, ragazzi, c'era un cazzo di banchetto di merda della destra a Piazzetta dei Servi di Maria. Quindi, la destra? La destra, non lo so, da cos'è? Dove deriva? Cos'è? È un detersivo, la destra, io la non destra, so. Solo la manica destra, non lo so. Raccontaci un po'. Perché io, la destra, sì, sembra. Non so, mi ricorda qualcosa, mi ricorda un. A me certo, ricorda. Una S non a caso. Mi viene in mente. Gli autobus londinesi che guidano a destra, non è collegato. No, in Inghilterra guidano a sinistra, caro. Ah, ecco, vedi. Forse allora è qualcosa che ha a che fare con l'italico popolo italiano che prontamente guida a destra. Che tu che cosa ne pensi? Ma che guidi a destra, direi che insomma è un fatto indubbio, no? Sì. Altrimenti non ci si capirebbe. Certo, speriamo che non ci siano ulteriori derive. Con l'introduzione delle rotonde, alla fine si gira sempre a sinistra. Le cosiddette ronde rotonde. Esatto, che si gira su se stessi a sinistra, quindi potrebbe... Ma vabbè, a parte queste indicazioni, politica, infatti siamo qui, politica, per, basta, siamo qui per parlare di musica, no? Di politica, di certo. Problematiche stradali, quindi io anche per un attimino... Riprendere le idee, farei subito ascoltare un pezzo. Ma cosa vogliamo fare ascoltare? Cosa vogliamo fare ascoltare? Io direi di fare ascoltare Euforia. Euforia. Andiamo subito carichi e ascoltiamoci questo pezzo tratto dall'album Da Ponente a Levante. Da Ponente a Levante. In produzione, album, diciamolo, in produzione in questi giorni. Diciamo che è una chicchettina appoggiata lì, non è ancora niente di definitivo, un work in progress per voi. Quindi andiamoci ad ascoltare gli A Moto Mio con Euforia. Abbiamo sentito questo pezzo tratto dall'album Da Ponente a Levante, e una voce sicuramente particolare, una ricerca musicale, insomma, che anche se è alla sua prima prova con questa formazione, quantomeno, comunque già si rileva alcuni tratti interessanti. Tanto è vero che, insomma, si fa un po' fatica a definire un genere rispetto alla vostra musica. Sì, c'è chi ci ha definito Red Newground, che è Jacopone della BM, che salutiamo adesso in diretta. Ciao Jacopo! E invitiamo a presenziare alle prossime trasmissioni, sì, eventualmente. Sì, certo, sì, ma glielo dico, certo. Glielo dico. E niente, no, questo lavoro che stiamo cercando di pubblicare, insomma, nasce dal desiderio di un po' di riunire menti artistiche in senso proprio più lato, e in particolare di fare quel lavoro, un album molto di nicchia, abbastanza di nicchia, con Bologna, per Bologna, ma con Bologna. Cioè, nel senso. Cazzo, lo sembra uno spot elettorale di questa vacca, dai. No, no, invece è così. Ma non è che in fondo in fondo volete candidarvi anche voi alle prossime elezioni. Guarda, se un tipo come Beppe Maniglia si può permettere di andare in piazza, prima faceva le sue cazzatine. Grande Beppe, però, il nostro idolo. No, ed era diventato un'icona. Ricordiamolo, andando in TV a far scoppiare borse dell'acqua calda. Con il fiato, no? E il punto un uomo è veramente notevole. Adesso si è messo anche a fare DJ Beppe Maniglia con Arcord. No, non va com'era bene. Com'era quel suono? Voglio risentirlo. Bene, campionate dalla regia. E poi diceva anche che tra l'altro i napoletani non potevano entrare a Bologna. Non ho capito bene la storia. Il fatto sta che se lo può fare lui e se lo può permettere, lo posso fare anch'io, a sto punto, guarda. Beh, io mi ricordo la sua promessa elettorale ancora, cos'era, un annetto e mezzo fa, che semafori. C'era quella ancora migliore, che voleva mettere delle spiagge sui viali. I viali alberati però di palme, stile Los Angeles, con della sabbia portata dalla riviera e con spiagge lungo tutto il ring di Bologna. E poi ovviamente ha promesso a tutti gli artisti di Bologna, questo e non solo, anche della provincia, una moto a disposizione, un Harley Davidson con tu. Poi ragazzi, basta però parlare di Beppe Maniglia e di politica, no, alla niente, fine si cade scherzi, sempre là. Questo lavoro si chiamerà da Ponente a Levante, penso che sia quando arriverà il risultato finale, che dovrebbe essere una sintesi tra classico, anche strumenti ad arco e tutto quanto, e più sperimentale, diciamo sarà un album che sarà interessante, però adesso ancora è acerbo. Sì, sicuramente si sente che, come dire, molte delle linee che avete tracciato con questa opera prima dovranno essere sviluppate. Certo. Però ecco, a me quello, siccome poi insomma noi ci conosciamo anche fuori di qui, sì. Conosciamo da anni con Mad e con Jack, da molto tempo, da un po' meno ma da molto tempo, a me che li ho visti nascere, crescere e rompermi i timpani in aula C provando l'abbiamo detto tante volte. I loro pezzi, mi piace ricordare quello che e sottolineare il fatto che diceva Mad prima, cioè che davvero questa formazione è composta da quattro elementi, se non sbaglio, per ora sono quattro elementi che vengono di da base. Poi ci saranno degli innesti, sì, che saranno. Poi magari ci racconterai dei progetti che avete in mente. Però mi piaceva ricordare che davvero questi quattro ragazzi che si sono incontrati un po' per amicizia, un po' per suonare, vengono davvero da mondi musicali anche completamente diversi. Cioè io mi è capitato la fortuna di poterli ascoltare dal vivo al Circolo Loquace in uno dei loro primi concerti, che come vabbè ne abbiamo discusso parecchio con Mad, non è stata forse una delle loro migliori prove, anche per limiti oggettivi del posto, della strumentazione e quant'altro, però insomma ho visto che c'è davvero tanta capacità musicale, tanta intelligenza messa in comune, cioè ad esempio c'è il contrabbassista Diego Nicolò. Che ho visto suonare il contrabbasso, ma anche il basso, numerosi strumenti, insomma un altro di conservatorio, quindi anche uno che gli arrangiamenti per esempio per archi le sa fare, insomma. No, è un sa il fatto suo. Sono dei ragazzi, poi ti dico, sono tutti più giovani di me, che da un lato è una grande risorsa, perché chi è più giovane ha più spinta. ha più spinta. Io lo vedo oggi, stavo andando su uno spazio in internet a vedere dei miei amici che suonavano all'epoca quando io suonavo in un gruppo, i Secret Sound, parlo di 6-7 anni fa, in giro anche a Bologna si facevano delle date interessanti come al Covo, per esempio, il Casalone del Rock vecchio, che anche in Inghilterra lo conoscono perché è uno dei proprio primi degli anni 70, fine anni 70. E niente, si sono andati a vedere su internet, fanno la prima tournée europea e hanno lasciato caso, degli innesti. No, vabbè, per l'amor di Dio, non faccio lo stesso genere. Poi vabbè, hanno messo degli innesti i giovani, che secondo me gli hanno giovato poi nel tempo. Cioè i giovani in generale, cioè Nicolò ha 18 anni, sa suonare una miriade di strumenti, batteria, contrabbasso, basso, piano, tutte abbastanza, cioè basso, piano e contrabbasso. Ecco, ma io volevo tornare un po' su di voi, no? Appunto, sapendo che i generi musicali che vi ispirano sono diversi, proprio mi piaceva chiederveli anche individualmente, insomma, quali sono i gruppi a cui vi ispirate. Sai, io parlo per me, io vengo più dal rock, grunge rock, però con sempre un'attenzione, sono sempre, diciamo, mi diverte sempre fare improvvisazione, comunque blues, funky rock, diciamo, mi piace, mi diverte. La roba che stiamo proponendo adesso è totalmente, cioè spacca con i tempi abbastanza. Questo ve lo posso assicurare anch'io, no, perché sembra un po' di autocelebrazione. No, spacca con i tempi, cioè non è la classicità che prende anima dal virtuosismo. Anche perché qua di virtuosisti c'è solo Nicola Toschi, il contrabbassista. Bensì prende anima lo spirito della proprio della moto mio. Cioè la moto mio fondamentalmente è a modo mio. È chiaro che ci sono delle regole base, non è che uno può andare fuori tempo, è chiaro. Però a moto mio è proprio questo concetto. Il concetto di rendere nostro il movimento acustico. Acustico o semiacustico. Tutto qua. Con un occhio ai testi, però cioè, diciamo che abbiamo tutte influenze diverse, quindi si sente il contrabbassista più un'influenza jazzistica, anche un po' come si può dire, folk. Sì, diciamo che nella sua esperienza cioè, penso molto importante il fatto che lui suoni con i Jeff Norris, che propongono un jazz manouche molto simpatico. E quindi questo divertente, ritmato molto. Sì, perché se c'è poi una cosa che posso assicurare, che poi dal vivo gli A Moto Mio rendono molto anche per la presenza fisica, cioè sono concerti con una corporeità forte. La scenicità è sempre stata una anche cosa quella che sarà da sviluppare, per quanto è il mio modestissimo parere di ascoltatore di musica, ma sì, sicuramente non di esperto, però quello che si apprezza è c'è già una capacità di tenere il palco, diciamo di riempirlo quantomeno di... personalmente, cioè io quando c'è proprio sento che c'è quella sinergia particolare, no, che unisce alla fine le nostre menti, o non so, forse una parte particolare del nostro cervello, io cioè mi si vanno indietro gli occhi, si ribaltano gli occhi, vado in trance, quindi sai lì il momento in cui suoni ci vorrebbe un zingolino, c'è non sempre abbiamo un momento di trance che ti isola anche da quello che può essere la persona che ti sta ascoltando, perché sei totalmente immerso in ciò che tu hai prodotto precedentemente e ora riproponi, ma non lo riproponi solo per qualcun altro, lo riproponi in fondo anche un po' per te stesso. Un po' molto, anche perché è importante anche l'altro, perché è chiaro che deve arrivare anche un messaggio. E se non ci fosse la gente che ascolta, effettivamente questo messaggio non arriva. Ma tu cosa dici? Però suoniamo per noi, chiaro. No, io volevo chiedere l'ultima cosa a Jack e poi sentiamo un altro pezzo dell'album, ed era cioè rispetto a quelle che sono invece il suo retroterra musicale. Da dove vieni? Ma sì, diciamo che io vengo da Ferrara. Innanzitutto viene da Ferrara. Sì, essendo di bolognese, lui è l'unico che mangia i capelletti. Adesso, perché i capelletti sono buoni. A Bologna, buoni. Credo, ma no, diciamo che Diciamo che io avevo iniziato, come penso un po' tutti i ragazzini piccoli alla loro età, che prendono in mano la prima volta la chitarra, con un classico punk che può andare dai Sex Pistols ai Ramones ai Clash. Rancid. Diciamo che non diciamo che non si escludono i Rancid, visto essere uno dei pochi gruppi decenti usciti dalla California degli anni 90, con tutta quell'ondata di punk schifoso e adolescenziale. Ma a parte questo, poi insomma le strade che in cui mi sono messo è stato bene o male quello del noise rock, quindi Sonic Youth e via di grandi lì. Grandi Sonic Youth. Senza dimenticare ovviamente anche il grunge, perché un po' il passaggio fra questi due generi è corto. Io, il mio gruppo precedente, facevamo una sottospecie di sintesi fra il grunge, magari con una tonalità in italiano un po' più noise, con quelle sfumature lì. Poi ho smesso di suonare per molto tempo e avevo ripreso a fare un po' di progetti elettronici di sperimentazione, ma poi la distanza, rimanendo a vivere qua a Bologna, mi ha impedito di continuare. Sarebbe stato interessante vedere cosa ne usciva fuori. Beh, quindi insomma il vostro progetto attuale per entrambe mi sembra che rappresenti una rinascita musicale anche, no? Entrambe venite dalle ceneri un po', dalla sì, microframmentazione. No, più che altro dalla microframmentazione. Penso che questo sia il punto. La microframmentazione dove? In che luoghi? In tanti microlocali. Cosa vuol dire? Vuol dire che secondo me cercare la collaborazione è fondamentale con gli artisti, e per questo infatti io e Nicolò, e anche quest'altro ragazzo che si chiama Jacopo, ma Nicolò Toschi, il ragazzo che suona con noi, ci siamo messi in testa di progettare una sorta di giro, un giro di vite se vuoi, però in realtà poi sarebbe un giro anche di spettacoli, di manifestazioni, quindi da ciò che va dalla musica alla pittura alla poesia, e quello che è una scena artistica, una sorta e culturale di scena artistica, sì. Beh, direi che è molto interessante, magari dopo ci parlerai un po' di questi tuoi progetti, perché alla fine i sogni e i desideri sono quello che fanno vivere poi anche la realtà, anche se magari non si vanno a realizzare sempre come vogliamo noi e nei tempi che vogliamo sì, noi. Anche la maga di Cenerentola lo diceva, i sogni sono dei esatto. desideri. Di felicità un sogno non hai pensieri. Vabbè. Lasciando stare le nostre voci stonate, per quanto mi riguarda, io ora mi andrei a ascoltare la nostra presenza inquinante, un pezzo veramente artistico. Forse ne facciamo sentire, qua, ne facciamo io, sentire due, dai, io sentirei il Maggese e poi magari tornerei qua per fare altre due parole e poi potremmo far sentire anche un altro pezzo se vi piace. Bene. Quindi andiamo con allora questo pezzo per gli amici è il Maggese, mica per tutti. In realtà poi si chiamerà, perché alla fine è perché sempre poi così. Poi non sappiamo alla fine neanche. No, no, io penso un po' già di saperlo. Dai. Comunque Maschera Metropolitana probabilmente. Introducici in due anche parole. No. Introduceteci in due parole questo pezzo. Questo è un gran, secondo me è un gran bel pezzo a livello musicale, e l'hanno arrangiato tutti i ragazzi, ci sono rimasto. Sì, no, infatti ci sei un po' rimasto. Confermo. A livello di testo è molto personale. È molto personale. Intimista. Perché no, è molto personale perché l'ho fatto in un periodo abbastanza pesante, in cui soffrivo parecchio. E diciamo che la forza, se vuoi, che mi è nato anche gli stessi musicisti, gli stessi ragazzi che suonano con me, e anche la forza della maschera in qualche modo mi hanno aiutato, non dico a superare, ma a stare meno male. Quindi ho deciso di fare appunto, scrivere questo testo e musicarlo sul loro arrangiamento. Una dedica particolare alla fine è andata a Jim Morrison, che è uno dei miei più grandi degli artisti che amo di più, e mi piacerebbe incontrare magari anche in un sogno, ecco, una cosa del genere, no? No, perché è vero. E direi che sì, su questa no, è vero. Infatti citazione è stata dedicata a Jim Morrison, neanche ai Doors, a Jim Morrison come figura, così, anche come scenicità dal palco, così. Su questa altissima citazione di un pilastro della musica, direi che non rimane altro che lasciare lo spazio alle parole e alla musica degli Amato Mio, e poi vedremo se raggiungerà l'Olimpo degli dei della musica, tra cui Jim Morrison sta a pieno titolo. Sì. This is the end, beautiful friend, the end. Attenendo fine, respiro forte, seppellirò i sintomi dell'astinenza che bruciano e infiammano il mio petto. Mi vestirò nella tua pelle per proteggermi dallo smog, col fato accese, per discariche del centro bolognese. E scende l'impercettibile neve, e scende l'impercettibile neve. Scende un'impercettibile neve sui miei pensieri, voraci come neve, sciacalli di falene che non vogliono annegare. E mi vestirò della tua pelle per proteggermi dallo smog coltivato a accese nelle discariche radioattive centro berlinese. Il centro londinese. Esce un'impercettibile neve. Ecco, abbiamo sentito questo pezzo, veramente di un'intensità notevole, e adesso, insomma, perché dovete sapere, qui facciamo un coming out. Facciamo un coming out. Un coming in. È un spazza camino. Oggi ce l'abbiamo, con la storia della Walt Disney. Perché non un coming under? Un coming under mi sembra adatto. Perché volevamo approfittare dell'occasione anche per presentare un progetto molto piccolo, però che ha grosse ambizioni, che io e Jack stavamo mettendo in piedi in quel luogo angusto che è l'Aula C, che, come dice il blog che ho scritto io, sono quattro pareti e qualche tavolo nero e dei divani su cui passare il tempo tra un esame e l'altro e combattere la noia e lo stress metropolitano. Per sostituire il tempo dedito all'esame, cioè si può anche fare questo. Sì, ecco, se non avete voglia di fare un cazzo, potete tranquillamente venire, il posto più bello. È un luogo perfetto. Io ci ho perso 5 anni della mia vita, vi posso dire che ne sono uscito veramente segnato, e per fortuna ora piano piano sto diminuendo il mio impatto, sto facendo una terapia. L'Aula C? Una terapia dura. Fare tanta pling. questo spot. Allora, potrebbe essere un bello spottino. Comunque a parte gli scherzi, uno dei modi con cui superiamo la noia e lo stress da esami è sicuramente ascoltare la musica. E siccome molto spesso ci si è trovati a parlare, a discutere di musica con Jack, che è qui con noi, ma anche con altre persone, ci era venuto in mente, insomma, di utilizzare i nostri piccoli mezzi per condividere con altri quelli che erano le nostre diverse passioni, perché lo dico già da subito, a me la maggior parte della roba che ascolta Jack per me è inascoltabile, però no vabbè, ma in fondo, allora, diciamo che è anche questo un po' il motto, no, potremmo dire, di questo progetto che sta partendo, non è ancora partito, è lì che sta per nascere, sta è un scavando po' dal sottosuolo per metter fuori la per testa, per riemergere, diciamo, e è un po' anche l'incontro di varie tendenze che non si devono per forza scontrare, creare territori distinti a cui certe persone si devono rivolgere per trovare un determinato tipo di musica, ma penso che l'incontro sia la cosa più importante che possiamo trovare all'interno della musica. L'invito è anche quello alla contaminazione dei generi, contaminandosi, anche le persone che stanno portando avanti questo progetto. L'abbiamo detto il nome? Il progetto si chiama Back to the Humanoids con 3Z, mi raccomando, ed essenzialmente per ora siamo in tre, siamo io, il buon Jack e Corrado, il nostro caro amico Corrado, che salutiamo, e però ovviamente l'iniziativa è aperta a chiunque voglia contribuire, ed essenzialmente consta in una serie così di suggerimenti all'ascolto. Come si diceva, Maurizio Costanzo diceva un consiglio per gli acquisti. Ecco, noi che non ci abbiamo mai una lira in tasca, l'acquisto è un po' troppo. Il nostro è un consiglio per l'ascolto. Un consiglio anche per lo ska. Per lo scambio. Per lo scambio. No, ma dicevo che c'è lo scarico del bagno che non funziona. Un nome per un gruppo scambio. Si sente un po' il lezzo provenire dal bagno. Però a parte queste cazzate, anzi merdate, direi, essenzialmente sul blog dell'Aula C, che è aula-c.noblogs.org, pubblicheremo delle brevissime e assolutamente autoprodotte e individuali, quindi personali, recensioni di tutta una serie di gruppi che ascoltiamo e che vorremmo ascoltare, e fornendovi, insomma, anche le indicazioni su quello che su dove reperire questa musica per poterla ascoltare, chiaramente senza violare le leggi vigenti, poi sì. Vi inviteremo tramite i commenti del blog a darci quelle che sono le vostre impressioni, i vostri suggerimenti, i vostri pareri. Esatto. Di pareri su questa e perché no ricevere le vostre recensioni e i vostri contributi anche della musica che fate voi. Certo, è ovvio che questo non vuole assolutamente essere un progetto, anzi spererebbe di non essere solamente rivolto a quelle magari che sono le uscite discografiche comunque presenti nel mercato ma che non trovano molto spazio a livello diciamo di mainstream, ma vuole anche essere magari proprio un talent scout, se vogliamo essere anglofili, per quella che è la musica underground che non riesce ad emergere da nessuna parte, perché comunque sappiamo come funzionano le dinamiche di certe questioni, soprattutto legato al mondo della musica, soprattutto nel momento attuale che è, possiamo dirlo, di crisi del formato. Ma per i giovani può essere del formato di crisi, trasmissione. Sì, perché manca la pilla, cioè, insomma. No, perché oltre, diciamo che questa crisi rafforza i poteri di quelle grandi etichette che si mangiano letteralmente gli artisti prima di tutto e il mercato musicale in generale. Sì, ma soprattutto sai, i soldi circolano, ma circolano per i pochi che hanno già un nome, e quindi anche la casa discografica investe semplicemente su un Vasco, su chiaramente gente che gli porta 80.000 persone negli stadi. Tutto sì, qua. Vasco è... Tanto per dire uno, cioè... Vasco è un nostro amico, poi lo salutiamo molto... Vasco Rossi. Vasco Rossi sto parlando. Ah. Grande major. Tu avevi detto prima che c'era crisi? Ma si dice così? C'è crisi dappertutto. Dappertutto c'è crisi. Sì, a proposito di Vasco, su Visi. Salutiamo anche l'altro Vasco, Vasco Brondi, un nostro artista. Sì, amico, amante dei cappellini. Dei cappelletti. Cappelletti. Veri, qua proprio. Sti bresciani. No. Pota, io vado a Polenta e Osei, cioè. A me queste le cornie non mi toccano le papille, no, in realtà mi piacciono molto, però rimango fedele alle mie tradizioni culinarie. E niente, caro Jack, io direi che potremmo inaugurare questa prima mondiale, universale di Back to the Human Noise. Aspetta, Mad. Che, cosa vogliamo farci che aspetta, l'ultima, che spero che, cioè spero, ne sono anche abbastanza sicuro, che Zik vorrà ospitare anche come contributo musicale. Ma quando sì, magari quando ci sarà un po' più di tempo e di... E quando ci sarà un po' più di radio, inteso, appena riusciremo a mettere in piedi la baracca, oppure quando qualcuno ci porterà delle frequenze in FM, come chiediamo in tutte le nostre dirette. Facciamo un appello, chiunque abbia nel cassetto, nella suola delle scarpe o attaccate ai capelli insieme a un shaving gum delle frequenze in FM, li porti urgentemente agli studi di Zik Radio in VAG 61 in via Paolo Fabri 110 e noi in cambio gli daremo tanto amore e un arrosto con le cipolle. Bene, io lascio a te la parola. Sì, dai, guarda, per questa settimana io e Corrado abbiamo scritto due recensioni. Adesso, per il tempo che abbiamo, magari le potrete leggere direttamente sul sito dell'Aula C, sul blog dell'Aula C, scusatemi, quando usciranno. I due gruppi erano per ora gli Across Tundras e Vic Chestnut. Direi che ci possiamo sentire benissimo Vic Chestnut, che è un cantautore americano di Athens, molto variopinto fra un album e l'altro nei suoi arrangiamenti, in quanto sceglie sempre diverse band da cui farsi accompagnare. Qua lo possiamo ascoltare in compagnia degli Silver Mount Zion, che sono una formazione canadese proveniente dagli Godspeed You Black Emperor, un gruppo post rock sinfonico. Tanta roba. Inoltre anche Guy Pizzotto, storico membro dei Fugazzi. Bene, ragazzi, qua è roba che scotta. Qua è, e quindi non scottiamoci. Dall'album North Star Deserter di Vic Chestnut, Everything I Say. only two. Eccoci, siamo di nuovo in diretta e niente, a questo punto siamo insomma sul finire, addirittura d'arrivo, ma vogliamo dire ancora due cose. Innanzitutto volevamo ricordare il prossimo concerto degli Amato Mio, che si svolgerà mercoledì sera presso la Facoltà di Scienze Politiche in Strada Maggiore 45, in cui ci sarà una festa per raccogliere fondi per le popolazioni abruzzesi. Ci teniamo a dire che tutto il ricavato di questa festa e tutte le energie del collettivo di cui insomma facciamo parte, che è l'Aula C autogestita di Scienze Politiche, andranno a sostenere un progetto nato dal basso in questi ultimi tempi, Epicentro Solidale, un progetto che vede la coordinazione di diverse realtà a livello nazionale per portare aiuto diretto, quindi nelle mani dirette della gente che oggi in Abruzzo è costretta a vivere nelle tende e, ahimè, ai noi, ancora anche a dormire in macchina. È un progetto che non a cui non piace insomma sbandierare, come stanno facendo tutti sui media, senza voler criticare, per carità, chi dà aiuto in questa emergenza, però a livello di stile indubbiamente tutte le varie associazioni, ma soprattutto molti politici stanno facendo dell'emergenza in Abruzzo una bieca e proprio anche brutta operazione di immagine. A noi ed è per questo che ci siamo trovati d'accordo e ragazzi di Epicentro Solidale interessa portare un aiuto diretto, concreto, immediato, senza bandiere di sorta, senza dover sventolare ai quattro venti ogni minima cazzatina che andiamo a fare. Le persone con cui entreremo in contatto saranno i testimoni, oltre che i beneficiari dei nostri sforzi, e a noi questo basta, perché ci sembra che soprattutto in situazioni di emergenza come queste il rispetto e la dignità delle persone debbano essere al centro di tutto e venire prima di qualsiasi logica mediatica o elettorale o popolarista che veramente in questo periodo sta ammorbando il panorama italiano e in particolare insomma che poi cioè vabbè, non mi fermo qua perché andrei in terreni scomodi, però sicuramente non giova a chi in questo momento soffre e vuole avere una speranza per il futuro costruita collettivamente tutti insieme con la solidarietà come valore fondante. Quindi mercoledì sera Yamato Mio insieme a Jack, insieme aiutami, Letus Lush e Jeff Norris. I Jeff Norris e Letus Lush, probabilmente sì, e a seguito musica DJ set, quindi che sarà molto rilassato e contenuto, e forse una... anche qualche lettura, mi sembra. Sì, sì, assolutamente. Tutte le pause che serviranno per questioni tecniche al cambio dei gruppi verranno prontamente riempite da letture di testi che verranno accuratamente selezionati dai nostri amici letterati, che ora non sono in aula C perché è chiusa in quanto sabato, ma sono sicuro che lunedì li ritroveremo prontamente lì alle 9 di mattina a leggere libri e a scartabellare, e scartabellare sulle opere di Dante. No, vabbè. E poi io aggiungo che ho notizia che si sta approntando anche una mostra fotografica proveniente direttamente dai territori dell'Abruzzo, e purtroppo non ci sarà presente nessun esponente di Epicentro Solidale, ma comunque tramite le letture si avrà modo di dare testimonianze. Tanto sta uscendo anche in rete rispetto a questa iniziativa. E niente, io direi che andiamo a sentire quest'ultimo pezzo che Med ci vuoi presentare. È stato però il primo in produzione, diciamo, il primo nato proprio da primogenito, in un periodo che ormai risale a 8 mesi fa, 7 mesi fa, da me e Dieghino, poi riarrangiato dai ragazzi. Questa è la nostra presenza inquietante, e parla di Bologna, di come vivono si vive in generale la vita underground bolognese. La vita di strada, quella che viviamo noi. Ma non di strada. La vita di degrado. No, è un degrado inventato, ecco, questo sì, questo sì. Cioè siamo non scomodi, ma inquietanti. Siamo inquietanti, un po' oppressi, e facciamo comunella nelle nostre case. Quando inizieremo a unirci saremo veramente inquietanti. Questa è la nostra presenza inquietante. E allora sì che sarà balotta. E niente, su questo brano, sulle note di questo brano, che intanto Jack può anche mettere in sottofondo, vediamo, sentiamo partire. Io vi do i miei saluti, augurandovi buona liberazione a tutti. Ciao a tutti ragazzi, salutiamo lo staff. La liberazione! E auguroni ancora a tutti i partigiani che sono ancora vivi sulla nostra bella amata Italia, o malamata Italia. Per le strade di questa città degrado contestualizzavano sempre ogni forma di degrado, ma che degrado, deterioramento, scadimento, specie con riferimento a fattori sociali, ecologici, urbani, schemi mentali, rassegnata. Società malsana, butta via la routine quotidiana, spegni la televisione, per favore. Ho visto una Bologna in tumulto, ma che non ha mai saputo dare ascolto alla voce di strada. Rompi la televisione, per favore. Se no ti accecherà. il tuo onore. Se la via cercherà il rumore.